Melog. Cronache meridiane. Di Gianluca Nicoletti. Ha fatto finta di avere una pistola, ha messo la mano dietro la schiena e ha minacciato di esplodere un colpo. E così per difendermi sono scappato e l'ho investito accidentalmente. Un operaio romano 28enne ha confessato di essere stato lui lunedì scorso a ridurre in fin di vita Tiziano Vitali al termine di una lite per motivi di viabilità a pochi passi dall'Eur. È ancora una strada di Milano ad aver fatto da sfondo all'ennesima esplosione di violenza, ancora una lite per un sorpasso ad aver innescato un'ira incontrollata. Sono stati superati da una Matiz che ha urtato la loro auto. I due hanno risposto a colpi di clacson, poi dalla Matiz... Ci avete fatto caso quanto la gente è più intrattabile al volante in questi giorni? Ci credo, fa un caldo terribile, la gente è arrabbiata perché non può andare in vacanza, non va in vacanza... Perché le città italiane, quando comincia il mese di luglio, sembrano bloccate, ferme. Improvvisamente il paese si ferma. Fino a metà settembre sembra quasi che non c'è nessuna attività che possa essere portata avanti. Ma ci sentiamo dopo le ferie, ci sentiamo dopo le vacanze, quando poi in realtà in vacanza ci vanno poche persone, le poche che ci vanno, i fortunati che ci vanno, in realtà sono il motivo dell'odio delle persone che rimangono. E questa sorta di rabbia palese e dimostrata nelle persone che abitano le città, che sono affocate, calde, in cui i problemi sembrano tutti esaltati e sembrano amplificati, in cui non c'è uno spiraglio di vivibilità, si scatena al volante. Chi normalmente al volante già era un po' irrequieto, al massimo mandava a quel paese una persona, se lievemente rallentava nello scatto al semaforo, o se in qualche maniera secondo lui aveva qualche attimo titubanza prima di svoltare o aveva qualche lieve disattenzione, adesso in automobile girano dei potenziali assassini. Proprio la cronaca di Roma riporta la notizia di un vigilante che ha tirato fuori la pistola, ha cominciato a sparare a tre pakistani facendo due feriti. Far West si parla, ma al di là del Far West ogni giorno capita di incorrere in tanti potenziali incidenti dovuti a rissosità stradale. Ecco. Vi date una spiegazione perché questo accada? Perché la gente che è notevolmente e probabilmente anche in parte giustificata, un po' più nervosa del solito e ha delle condizioni climatiche disagevoli, poi si sfoga al volante? Perché quando siete circondati da quattro palmi di lamiera, di vetro e di plastica, vi sentite dei supereroi, come se quel vostro spazio sacro non possa essere intaccato da nessun uso, da nessuna consuetudine, da nessun disservizio o maniera poco urbana di comportarsi che a voi dia fastidio? Beh, oggi vorrei sapere se anche voi vi siete resi conto, o se anche voi avete testimonianza, dell'eccesso di rissosità che esplode proprio sull'inizio della stagione estiva per quelli che rimangono in città. 800 24 00 24. Buongiorno Nicoletti, volevo dire che gli automobilisti italiani sono i più indisciplinati e maleducati del mondo. Ciao Nicoletti, perché quando ad esempio prendiamo un mezzo pubblico e sbaglio calpestiamo i piedi di qualcuno che ci sta vicino, ci prostriamo in scuse amicamente di varia natura e invece tra un'auto e un'auto, quindi a 2 mm di lamiera di spessore, ci si manda a fanculo con una facilità incredibile. 800 24 00 24. Violenza dal finestrino. I finestrini oggi sono per lo più chiusi perché tutti hanno aria condizionata in auto, ma si vede smaneggiare, fare il pesce nell'acquario qualcuno nell'automobile che ci sta accanto, e chi è capace di leggere la mimica facciale si capisce esattamente, si vede dal labiale qual è l'insulto che ci sta mandando, accompagnato da gesti, ma si fermassero all'insulto. Molte volte la persona tira il freno a mano, blocca la macchina ovunque sia e scende minaccioso e comincia a batterti sul finestrino. A quel punto che fai? Immagini, pensi, tutte le opzioni. Prendo il blocca sterzo e scendo, ma sono in condizioni di svantaggio, lui sta in piedi, mi dà una sportellata in faccia, ingrano la marcia e parto, ma faccio la figura del vigliacco. O semplicemente, come ogni essere normale, mediamente non rissoso, scendi per capire, scusami, ma cosa è successo, cosa ho fatto, e magari ti prendi un pugno in faccia. Molto intelligente interessante l'osservazione dell'ultimo ascoltatore. Dice: come mai se noi pestiamo un piede a qualcuno in metropolitana o andiamo a sbattere addosso una persona all'uscita di un negozio, chiediamo subito scusa? La maggior parte delle volte chiediamo scusa. E se una persona soltanto invade il nostro spazio vitale, il nostro spazio di sicurezza, quindi diciamo quel metro che circonda la nostra automobile, ci sentiamo pronti a saltargli addosso. Cos'è che dà lo scatenare di questo istinto belluino, di questa atavica forza bruta che un inerme ragioniere, un tranquillo commercialista, un buon padre di famiglia diventa un guerriero soltanto perché è circondato da un'automobile? Giorgio, buongiorno. Buongiorno, io faccio il medico e ogni giorno vedo gente diciamo fuori di testa, perché per lei è una diagnosi, lei ogni volta fa una diagnosi, questo c'ha questo problema. Fuori di testa perché la gente è perseguitata da queste tasse, da queste Equitalia, da queste cose. E praticamente è vero, lei dice una cosa giusta, è anche il periodo che si pagano le tasse, in cui si pagano le tasse. Sì. Quindi la gente è tutta che non ce la fa a pagare, è perseguitata da questo Stato che questi politici che creano la vita impossibile. Sì, ma tutti dobbiamo pagare le tasse, non è perché qualcuno si arrabbia. Ci sono autovelox pazzeschi dappertutto, nascosti, poliziotti messi sulle curve nascosti, cioè, è un stato di delinquente questo, quello che il cittadino va a lavorare ed è perseguitato. Cioè, il politico dovrebbe rendere la vita facile al cittadino, invece la rende complicata, mette semafori, mette rotatorie, fa di tutto per rendere, per fare fuori di testa la gente. Io capisco che questa gente, dopo tutte queste vessazioni da parte dei politici contro il cittadino, queste regole pazzesche, la gente poi diventa matta. Scusi, lei dottore guida, diciamo, anche lei andrà a lavorare o seguire il suo paziente? Io guidando guido, però guido molto piano e cerco di rispettare le regole, ma si capisce che le regole sono ferme a 50 anni fa perché le macchine... Sì, no, proprio, portarla a ragionare su una cosa, confrontarmi con lei su un punto, non è un'analisi di tipo buonista, ma come lei sta tranquillo e non prende il cric in mano, il cacciavite e non sfancula fino alla settima generazione quando incrocia qualcuno che in quel momento va a collidere con le sue preoccupazioni? Come mai altre persone non hanno quel livello di tenuta che ha lei, che in parte ho anche io, raramente, mancavo, urlo, ma urlo abbastanza bassa voce dentro l'abitacolo e non mi faccio vedere, sfanculo molto facilmente ma con un labiale quasi impercettibile per dare possibilità alla mia parte più detestabile di sfogarsi, ma non offendere la persona che mi sta vicino? Ecco, com'è invece non c'è questa tenuta? La gente in macchina improvvisamente sbraca. La gente, come io, ho fatto l'università, ho subito tante ingiustizie e alla fine devi sopportare tanto, o sopporti tanto o impazzisci. Infatti due o tre nel mio collegio di Padova, nell'università di Padova, sono diventati matti perché logicamente le regole, le pazzie dei professori sono c'è uno che fa l'università normalmente subisce delle angherie, delle cose. Vabbè, per lei dottore mi sembra chiaro, comunque c'è un rapporto causa-effetto da uno stato vessatore e una comprensibile esplosione di follia da parte dei cittadini. È interessante come tesi clinica. Marco, buongiorno. Sì, buongiorno. Sì. Io volevo fare solo il focus sul, nel senso, il rispetto che si ha alla guida. Secondo me una fetta di rabbia viene portata dal difetto tutto italiano di voler saltare le regole, nel senso nessuno usa più gli indicatori di direzione, non si rispettano le precedenze in autostrada, se c'è la coda ci sono sempre quelli che passano sulla destra, quindi quell'atteggiamento di questa gente che si sente in potere di prevaricare quella regola perché in quel momento affetta, e non capendo che poi peggiora la situazione perché il traffico si fa ancora peggiore, scatena la rabbia negli altri. A me capita, guardi, penso capita a chiunque, di avere reazioni violentissime da parte di leggiadre signore e signorine, ma alle 8 di mattina, quando ancora uno c'ha tutta la giornata davanti, non si può dire che sia stressato. Poi perché stanno in macchina, signorine che signore, che se incontrassi in ufficio, incontrassi un aperitivo, sarebbero tutte sorrisi e graziosità. Dentro la macchina, avvolte in aloni di profumo, immagino, ma si muovono come carrettieri. Questo non per discriminare il genere femminile, ma mi sorprende che l'aggressività di solito è più contenuta nelle donne, almeno quella esteriore e biecamente da camionista, se non si offendono i camionisti, è una categoria che ormai si è presa l'onere di rappresentare il massimo della aggressività verbale in automobili, quando si guida non è così naturalmente, prego. Poi c'è un altro piccolo aspetto che secondo me può essere anche molto importante nella nostra personale mia esperienza, perché vivo tra Milano e Berlino, quindi là c'è un pochino più di rispetto alla guida, ma vedo anche che le strade sono migliori nel senso di segnaletica orizzontale, cioè la gente sa dove deve andare, mentre vedo che invece in Italia le strade spesso e volentieri sono lasciate un po' all'interpretazione, e quindi sull'interpretazione poi si scatenano ovviamente i liti, perché uno va di là e non devi andare di lì, ma come, non c'è scritto nessuna parte che non devo andare. Questo di è chiaro, lì. Finora però ho avuto soltanto ascoltatori che mi hanno dato letture alte, sociologiche, psicologiche, cause derivate da disservizi, nessuno mi ha raccontato episodi concreti. Avete qualcosa da raccontarmi di momenti in cui avete veramente rischiato di far male a qualcuno, o avete rischiato che qualcuno vi facesse male? Il tipico energumeno che scende dalla macchina, quello che vi mostra i pugni, quello che vi mostra oggetti contundenti, perché io continuo a leggere cronache di gente che si scanna con tutto quello che gli passa per le mani, pistole comprese. Ecco, a voi mai è capitato qualcosa del genere? Mi piace avere gli episodi, perché da quando ho raccontato gli episodi della truffa, dello specchietto, del motorino greffato con la striscia di pongo e cose del genere, mi chiamano amici e amiche. Ieri mi ha chiamato un'amica che era stata anche lei fintamente urtata da uno scooter che l'ha inseguita dicendo mai graffiato, aveva sentito Melog e quindi ha tirato dritto e non si è fermata, quindi è utile. Ci fermiamo un attimo noi per il traffico e riprendiamo tra un istante. Melog, cronache meridiane. Ci sono gli automobilisti che sono nati per farti imbestialire, gli incapaci, sono quelli che da dietro non vedi neanche la testa, vedi solo due braccine abbarbicate al volante e vanno avanti in mezzo alla strada, piano. Niente, sono pieni di tic, controllano sempre se il freno a mano è tirato. Ma se controlli, è 8 volte che controlli, non è tirato, sei tu che vai piano. C'hanno la moglie accanto che c'ha sempre un triangolino di impermeabile fuori dalla portiera. Vai che sei verde, vai! Niente. I più spiritosi... Questo è Joelle Dix che... E lì elenca la sua rassegna di automobilisti tipo, ma io ho osato dire che ai semafori di Roma spesso la mattina ci sono signore molto arrabbiate e mi hanno subito bacchettato. Ho fatto 50.000 km all'anno, non ho mai visto donne fanculizzare altri, mi creda, le donne non sono aggressive e volgari come gli uomini, l'ho sempre detto, ma per questo mi sono meravigliato quando ne vedo spesso invece comportarsi diversamente. Dice: altrove ti stangano, un altro ascoltatore, in auto come a piedi, qui invece in Italia puoi fare quello che cavolo ti pare. Poi c'è una signora che è molto arrabbiata con i ciclisti, entrano le sottocategorie dei frequentatori delle strade, c'è sempre delle giustificazioni, vorrei episodi. Andrea da Ferrara, buongiorno. Pronto? Sì. No, sono da Roma. Ma da Roma, ci sono due Andrea, intanto la parli quello da Roma, parla quello da Ferrara. Allora, parlo io? Parli lei da Roma, sì. Allora, niente, io, dottor Nicoletti, penso che non esaudirò i suoi desideri. Ma io non ho nessun desiderio, sono solo curioso, guardi. Allora, guardi, io brevemente, sui fatti concreti io ne posso citare una ventina, perché vabbè... E me dica uno, Uno è, niente, uno è, ha tirato giù il finestrino, ha spaccato il finestrino, ma dato un cazzotto. Ma uno di quelli meno cruenti, ho raccontato. State perché, proprio fianco a fianco, stavate. Esatto, esatto. Ma poi senza nessun tipo di ragione apparente, quantomeno, insomma, E io l'ho rincorso poi, quindi anch'io mi sono macchiato praticamente di una reazione che è comunque contro la mia sì, rischiando volontà. Fra l'altro, rischiando una coltellata, rischiando perché poi impazzisci. Ma io credo che ci sia una ragione sicuramente che è ascrivibile ovviamente alla malorganizzazione, cioè su queste tematiche sociologiche credo che tutti quanti siamo d'accordo, ma io penso che ci sia qualcosa di più di questo, ovvero ritengo che comunque se ci pensiamo la macchina è un tempio, no, dell'autonomia, rappresenta per tutti noi il veicolo attraverso il quale noi possiamo arrivare dappertutto e diventa un potere e che noi ci giochiamo secondo me a seconda della cultura che ci viviamo, quindi c'è un'espressione, un riverbero culturale rispetto a questa cosa, perché anche in Germania c'è questo tipo di fenomeno antropologico, cioè, che è comunque diventa un potere. Diciamo l'ascoltatore Andrea da Roma dice che è un acceleratore di senso di impunità, stiamo in macchina, ci sentiamo di avere un potere che non vogliamo vedere in nessuna maniera essere messo in discussione. Vediamo Andrea da Ferrara questa volta. Sì, salve, io non credo così, io credo che la macchina sia un mezzo di lavoro che mi porta da una parte all'altra, cioè, del mondo. Anche di piacere, perché non c'è spazio. Diventa cattivo quando, come dice giustamente il medico di prima, fai 100 metri c'è un autovelox, fai altri 100 metri c'è un vigile che ti ferma, ne fai altri 300 c'è il carabiniere che ti ferma, che ti controlla la macchina perché tu sei un criminale che ammazza i bimbi. Cioè, avanti di questo passo qua è chiaro che l'automobilismo diventa cattivo, ma cattivo. Ma perché deve prendersela con un altro automobilista, come spesso accade? Perché c'è questa sorta di guerra intestina? Perché è cattivo, ma se la prende con gli altri automobilisti, non ho mai visto. No, io non ho mai picchiato nessuno e mai picchierò qualcuno. No, dico, non lei in genere. È cattivo che manda a fanculo le persone per questo motivo. Beh, le pare giusta che debbano nascondere le telecamere, oppure si devono nascondere per farti multa. Ma stiamo scherzando, ma chi si nasconde sono i ladri, eh. Vedo che comunque lei ha un bel bagaglio di rancore verso i vigili della sua città o del posto dove lei transita in macchina, quindi la sua animosità mi dà ancora conferma che in realtà diventa un recinto sacro, tutto ciò che accade attorno alla nostra automobile è qualcosa che comunque ci fa uscire da quello che è il normale controllo dei nostri istinti e delle nostre azioni. Marco, autista di bus di Udine. Buongiorno. Dal suo punto, diciamo, sopraelevato rispetto noi poveri automobilisti, cosa vede? Vedo ogni giorno la pazzia. Passando subito agli episodi, mi viene in mente all'inizio della mia carriera, circa 10 anni fa, una persona che conoscevo già essere tossicodipendente eccetera, che andava da una parte all'altra della strada, io pian pianino devo soppassarlo perché devo tenere l'orario, e questo al semaforo successivo mi ha raggiunto, mi ha sputato addosso, insomma. Vabbè, era strafatto, è un caso limite, diciamo. Oddio, non è il solo che gira sotto effetto, perché io soprattutto la sera ne vedo tanti anche dalle mie parti che si sono fatti una bella pista prima di entrare in pista, perché si vede, si capisce dallo sguardo, l'aggressività, dal tono di parlare. Molti guidano, c'è da dire, molti guidano sotto effetto di cocaina o di stimolanti, questo soprattutto la sera si vede, si capisce, e questo potrebbe essere un'altra delle motivazioni, ma chiaramente sono sempre casi estremi. Maurizio, buongiorno. Buongiorno. Cosa le è accaduto? Una situazione molto simile a quella dell'ascoltatore precedente. Viaggiavo, vedevo questo tizio che continuava a fare sorpassi assurdi. Quando mi ha affiancato gli ho fatto un gesto, ma non l'ho mandato a quel paese, era un gesto del tipo ma cosa stai facendo così. Questo ha fatto di tutto per farmi accostare e per non fare incidenti mi sono accostato e mi sono chiuso in macchina perché ovviamente non volevo assolutamente rogne, ho tirato giù il finestrino un pochissimo per poter parlare. Questo tizio è arrivato e mi ha strappato letteralmente la maniglia dall'auto e ha infilato la mano nel... Vabbè, come in Fantozzi numero 2, che Fantozzi si ferma con la bianchina, due energumeni scendono, gli staccano lo sportello. Assolutamente sì, la cosa interessante è stata che poi a un certo punto, quando ha visto che non c'era niente da fare, io non uscivo dall'auto, questo è partito e se n'è andato. Io come Fantozzi sono sceso dall'auto per andarmi a recuperare la mia maniglia che era in mezzo alla strada. dietro di me c'era una fila di, che ne so, 15 macchine, tutti muti, tutti zitti, nessuno che aveva il coraggio di dire niente. Poi dopo racconti la cosa in giro e ti dicono: ah, se c'ero io lo pestavo, lo ammazzavo. Insomma, ha del comico, però... Io se potessi dare un consiglio, di fronte c'è uno che scende, ti stacca la maniglia, rimani fermo, buono, e scappa via, o telefona alla... No, cioè, mai arrivare allo scontro fisico, perché uno può essere sicuro di sé, dire: io sono cintura nera di arti marziali, c'ho un blocca sterza a forma di mazza da baseball, ma lasciamo perdere, non entrate mai nel conflitto fisico, meglio prendersi gli insulti che andare per le mani con una persona di cui non sai quali sono i limiti. Una persona che stacca una maniglia a un altro automobilista sconosciuto per motivi futili e prova a tirarlo fuori dalla macchina compie una serie di reati anche molto gravi, perché non si può tirare fuori una persona da una macchina con le mani, e quindi vuol dire che è una persona che non ha più nessun scrupolo o ha poco da perdere. Laura, finalmente una signora. Laura, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, io ero in autostrada, avevo preso l'autostrada a Stresa per venire a Milano. A un certo punto c'era una macchina che andava lentamente e io la sorpasso. Cioè, cerco di sorpassarla, perché questo, quando si accorge che voglio sorpassare, accelera. Nel frattempo un Audi mi si piazza dietro a 2 centimetri e io ero lì che non potevo far niente. E com'è finita? Velocemente. Allora, è finita così. Quello dell'Audi si è spostato. Io... sono andata per non andare addosso. Insomma, si è salvata, c'è stato scontro fisico, colluttazione. Allora lo deve dire sì o no? Un momento, perché questo qui mi ha aperto la portiera, mi ha detto: tu a mia mi devi rispettare. Vabbè, abbiamo capito, è stata un'aggressione verbale molto grave, anche perché nei confronti di una signora. A domani, Popolista.